Dai, estate, tendenze estive, facciamo un po' un riassunto di tutte le tendenze in fatto di cose buone, di belle cose da mangiare, buone cose da mangiare, da bere, belle abitudini. Lo facciamo come sempre con il nostro gastronauta che torna ancora oggi insieme a noi al Sabato del Villaggio, Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao! Ma sai, io mi ero preparato a parlarti dei locali dove mangiare all'aperto. Allora, ieri sera però ero in un bellissimo locale che c'ha un giardino stupendo a Mantova, al Cigno, della famiglia De Martini, e nessuno voleva mangiare in giardino. Come tutti no? Tutti volevano mangiare dentro perché in giardino non si poteva mangiare dal caldo. Ah, perché che c'era troppo caldo. Terribile. Allora io mi ero preparato alcune cose a Milano, io le do perché magari succedono nei prossimi giorni. No, anche perché adesso, allora, io vedo che, lo chiedevo prima a Cristian Goldoni, se secondo lui sta per piovere, perché vedo che sta diventando un po' grigino, quindi secondo me rinfresca, Davide, ho deciso che rinfresca. Allora io voglio dare a Milano, perché Milano, insomma, la città dove si cerca sicuramente di mangiare al fresco, e c'è un locale che si chiama Al Fresco proprio, è uno dei locali che ha un bellissimo giardino. Allora devo dire che io darò alcuni locali e dirò anche a chi sono consigliati. Allora, Al Fresco è un posto a Milano, è una cascina dentro Milano, quindi sono due locali da famiglia, anche con i figli, perché si sta bene, c'è spazio, soprattutto quando c'è spazio, perché se uno arriva con la carrozzina poi diventano dei problemi. Quindi sono due locali dove anche la cucina non è molto elaborata, quindi c'è una cucina semplice, anche se di qualità. Quindi io questi due le consiglio stile familiare. Bene. Mentre al Garghet soprattutto al Garghet io consiglio magari Innocenti Evasioni, sono due locali che io consiglio romantici. E il primo me lo consiglia sempre anche il nostro Dario Ceccarelli, che lui è particolarmente appassionato, vedi? Allora mi consiglia bene. Sono da lume di candela, quindi in questo periodo vanno bene, magari qualche nuova conquista, qualche nuova uscita. Sono da romantici. Poi ce n'è uno culturale, che è la Terrazza della Triennale. Quindi che bello, sì, uno sì. Va a prendere il fresco dentro la Triennale, poi sale in questa terrazza che è una delle più belle di Milano, non c'è dubbio, perché sicuramente è una bellissima terrazza e quindi è adatto al colto, magari anche chi viene a fare un weekend a Milano. Dubito che qualcuno venga a fare un weekend di Milano tra luglio e agosto, però sai, magari per i saldi perché non hai tutti i torti, potrebbe. Hai ragione, non lo so, mi viene così. È vero, allora diamo dei locali da business, cioè allora La Brisa, che è un locale storico, però ha avuto vari cambiamenti, quindi può essere un locale appunto dopo che uno viene a fare le spese, va in via Manto Napoleone, quindi da altri posti molto privilegiati e arriva. E allora va bene anche Bulgari, perché l'Hotel Bulgari ha un giardino veramente molto bello, molto fresco, e quindi va benissimo d'estate anche per gli aperitivi. E poi anche la Trattoria Aurora consiglio, che può essere interessante, diciamo non gli do una identificazione, e l'Erba Brusca, c'è anche l'Erba Brusca che è quel locale dove con tanto di orto, ecco, qui chi va a cercare una cucina molto molto particolare, non perché la chef è di origine americana, ma perché insomma c'è qualche tocco così di originalità rispetto ad altro. Mentre a Roma le terrazze, ci sono splendide terrazze d'albergo. Roma è la città delle terrazze, io ora ne darò un paio, ma sicuramente a Roma ci sono decine e decine di terrazze dove si godono dei magnifici panorami e dove si sta anche molto bene, anche perché a Roma, anche se è caldo, verso le 7, le 8 di sera comincia quel venticello, quella frescura che purtroppo non è a Milano, non è a Firenze, non è a Bologna. Sì. Allora qui c'è l'Hotel Hustler, in Piazza di Spagna, che ha un roof garden incredibile con una vista che è unica al mondo. Credo che si potrebbe pagare il biglietto solo per andare a vedere lo spettacolo appunto di quello che si vede da quella finestra, perché da quelle finestre che si vede una Roma incantevole. Le Terrazze dell'Eden è anche un'altra bellissimo punto di Roma dove sicuramente andare a passare una serata al fresco, perché veramente anche questa è unica, è unica. Poi ancora a Roma c'è un locale che è notissimo per la cucina, che è la Pergola. Quindi devo dire che ecco, a Roma purtroppo questi locali che ho dato sono molto cari. Sono molto cari perché sono locali di alberghi importanti e quindi devo dire che insomma lì il costo è superiore ad altri. Però c'è una trattoria nella periferia romana che si può mangiare al fresco, mm-hmm. che è Cesare al Casaletto. Ah, bene. Ho preso appunti. Sì. A Firenze si può mangiare al Cibreo, al bar del Cibreo. Mm-hmm. Il Cibreo ha tanto i locali in quella che io chiamo Cibreo Square, anche se picchi si arrabbia, perché ormai è tutto Cibreo, e si può mangiare anche lì fuori, tenendo presente che si è a Firenze, quindi il caldo di Firenze. E poi a Firenze c'è un giardino magnifico, meraviglioso, unico, che è il giardino del Four Seasons. Anche qui, avviso ai naviganti, insomma, qui il portafoglio deve essere abbastanza ricco, perché diciamo che i costi di questi alberghi, lo ripeto, non sono a buon mercato. Però ci sono altri locali in giro per l'Italia, ne do uno in Valpolicella, che non dico per tutte le tasche, ma per buona parte delle tasche, si chiama Dalla Rosa Alda, a Sant'Ambrogio di Valpolicella, una frazione appunto in alto, e qui c'è una trattoria, veramente trattoria con la T maiuscola. A Noli, un altro spettacolo, è la terrazza del Vescovado, qui si vede veramente il Golfo di Noli, è veramente veramente bello. Ad Alassio c'è il ristorante Il Nove, che ha un giardino meraviglioso di 30.000 metri, quindi si può andare a visitare e tranquillamente prendere il fresco o prima o dopo mangiato. Io per il fresco vorrei parlarti, come abbiamo detto, facciamo un po' le tendenze. Sì. Ora non è una tendenza, è una necessità il melone, perché molti con questo caldo ricorrono sicuramente ai meloni. Il melone che... a volte per me è l'unica cosa che ho voglia di mangiare la sera quando torno a casa, cioè fa talmente caldo che non riesco a pensare a nulla, allora dico vabbè, compro il melone. Allora guarda, il melone di solito c'è un accostamento che è molto tradizionale, è diventato, che è col prosciutto o col culatello. Bene, io propongo un qualcosa di diverso, che qualcuno a questo punto che mi sta ascoltando dirà la solita originalità da andare a verificare: il melone con il tonno. Il melone con il tonno è un accostamento che è molto molto piacevole. Noi intendiamo il melone quello giallo, non l'anguria, non il cocomero. No, melone giallo è il melone soprattutto mantovano, e ora sì, ne parlerò delle varie differenze del melone. L'anguria, quella rossa, allora qui un accostamento estremo. Provatelo però, poi magari mi mandate a quel paese. Uh-huh. L'anguria con la ventresca di tonno. Sembra un'eresia, sembra veramente... Provatela. Ma io mi butto, quando il gastronauta consiglia io mi butto. Allora, dicevamo melone. Melone, allora ci sono varie specie di melone. C'è il melone, oggi il melone che diciamo è imperversa, perché è un IGP, è quello chiamato melone mantovano, che ha alcune capitali, che sono Viadana, Sermide e Magnacavallo. Però l'IGP mantovana comprende anche altre produzioni, che sono Cremona, Modena, Bologna e Ferrara, quindi un'area molto ma molto larga, che oggi è quella che è imperversa sui mercati, quindi dei fruttivendoli a Milano si trova prevalentemente questo, anzi ci sono due o tre produttori che addirittura ormai mettono il marchio, marchiano i loro meloni con il laser, quindi troverete scritto appunto il nome del produttore. E perché mantovano? Perché il melone era già diffuso al tempo dei Gonzaga, si sa che i Gonzaga hanno influenzato a tutt'oggi la cucina mantovana, certo, e tutto quello che si mangia a Mantova. Quindi il melone arriva da allora, arriva da quel periodo. Allora ci sono due tipologie di melone mantovano. Uno è retato, che è quello appunto che lo vedete, che non è liscio, che occupa il 70% addirittura del mercato italiano. E poi c'è il liscio, che c'è diciamo una parte minore. Il retato addirittura ha una propria tipologia all'interno che si chiama supermarket, che ha una forma tonda tendente all'ovale, una buccia verde o gialla rugosa e una polpa arancione, il gusto dolce. Questo è disponibile da maggio a ottobre. Poi c'è invece quello liscio che si chiama Tamaris, quindi è reperibile anche questo da giugno e settembre. Questo sicuramente ha un profumo molto intenso e molto più sodo e succoso, e qui c'è un gusto molto molto molto zuccherino. Poi esiste una varietà che diciamo era scomparsa ed è un melone, chiamiamolo siciliano, però ha un luogo particolare che è Paceco nel Trapanese, uh-huh. E si chiama melone Cartucciaru. Era scomparso perché? Perché rendeva poco. E quindi il problema era diventato molto, così, molto serio per i contadini, gli agricoltori, ma è ritornato e poi costa molta fatica a raccoglierlo. Ecco perché appunto il costo era molto alto, però oggi si può ancora trovare. Larga parte di questi meloni, se uno va in Sicilia durante queste vacanze, ne vede molti nei campi, lasciati nei campi. Tutti penseranno che sono andati male, che sono cattivi. No, andate, fate un furtarello, prendetelo, io l'ho fatto anni fa, e portatevelo magari a casa, poi mangiatelo, perché può capitare anche un ottimo melone. Poi c'è il melone sardo. Il melone sardo è quello che dura più di tutti, è molto, diciamo che a settembre si può ancora mangiare, perché ha una elevata capacità di conservazione e si mantiene anche per un paio di mesi. Quindi alcuni lo considerano un melone invernale. Bene, poi ce ne sono anche altre delle sottospecie, però credo di aver fatto un quadro abbastanza esauriente del melone. Come fare per sceglierlo? Ecco, ti chiedo solo questo, poi diamo la linea alla pausa, ma voglio sapere come lo scegliamo senza sbagliare. Innanzitutto deve essere molto pesante. Anche se piccolo deve essere pesante, annusatolo dalle due parti, deve già emanare un po' di profumo, quindi però devo dire che non è una scienza esatta. Di solito sono queste due regole che tengono presente anche i nostri venditori di frutta e verdura. Allora, caro Davide, ti ringrazio tantissimo per questa finestra estiva. Io mi sono presa un sacco di appunti sulle mete per mangiare all'aperto, perché io sono fiduciosa. Sento che si sta per rinfrescare il clima, sono praticamente sicura. Permettimi di augurare a tutti i nostri radioascoltatori una buona estate. Grazie Davide, io ringrazio Davide Paolini per essere stato con noi in tutti questi sabati del Sabato del Villaggio, sperando di ritrovarlo al più presto. Grazie al nostro gastronauta, ciao Davide. A presto.